Mary resta alla canonica. Il giorno seguente, i bambini della canonica portarono Mary Vance in chiesa. All'inizio lei obiettò a quell'idea. Non andavi in chiesa quando stavi dall'altro lato della baia? Chiese una. Puoi scommetterci. Alla signora Wiley non importava granché della chiesa, ma io ci andavo tutte le domeniche in cui riuscivo a svignarmela per un po'. Ero molto grata che ci fosse un posto in cui potessi starmene seduta in pace, ma non posso andare in chiesa con questo vestito tutto stracciato. Quella difficoltà fu superata grazie a Faith, che si offrì di prestarle il suo secondo vestito migliore. È un po' scolorito, gli mancano due bottoni, ma dovrebbe andare. Oh, i bottoni posso riattaccarli io, ci vuole un attimo, disse Mary. Non di domenica, disse una sconcertata. Certo che sì, non c'è giorno migliore. Datemi ago e filo e se proprio la cosa vi scandalizza, guardate da un'altra parte. Gli stivaletti per la scuola di Faith e una vecchia mantella di velluto nero, che una volta era appartenuta a Cecilia Meredith, completarono l'abbigliamento di Mary, che si incamminò quindi verso la chiesa. Si comportò come si deve, perciò, nonostante qualcuno dei presenti si domandasse chi fosse mai quella ragazzina un po' trasandata insieme ai bambini della canonica, non attirò molta attenzione su di sé. Ascoltò il sermone con conveniente decoro e si unì con gusto ai canti. Aveva una voce chiara e forte e un buon orecchio per la musica. Rosanna nell'alto dei cieli, cantò allegramente a un certo punto, e la moglie di Jimmy Milgrave, seduta nel banco avanti, si voltò di scatto e la squadrò da capo ai piedi. Spinta da un impulso di inutile impertinenza, Mary le fece la linguaccia, con grande orrore di una. Non sono riuscita a trattenermi, disse quando uscirono. Perché mi guardava in quel modo? È maleducazione. Sono contenta di averle fatto la linguaccia. Anzi, avrei dovuto fargliene anche un'altra. Ehi, in chiesa ho visto Rob McAllister, che sta dall'altra parte della baia. Potrebbe andare a dire alla signora Wiley che sono qui. Ma la signora Wiley non si fece vedere e nel giro di pochi giorni i bambini se ne dimenticarono. Mary divenne una presenza fissa alla canonica, ma si rifiutava di andare a scuola con gli altri. No, ho chiuso con l'istruzione, rispose a Faith che insisteva perché andasse. Sono andata a scuola per 4 inverni, da quando sono andata a stare dalla signora Wiley e ne ho abbastanza. Sono stufa di essere sgridata perché non ho fatto i compiti. Non ce l'avevo il tempo di farli. Il nostro maestro non ti sgriderà. È un tipo gentile, disse Faith. No, no, no, non ci vengo. So leggere e scrivere e anche far di conto fino alle frazioni. Mi basta questo, andate voi. Io resto a casa, non preoccupatevi, non ruberò nulla. Sono una persona onesta, lo giuro. Mentre gli altri erano a scuola, Mary si dava da fare e a pulire la canonica, che in pochi giorni cambiò aspetto. I pavimenti venivano spazzati, i mobili spolverati e tutto era tornato in ordine. Mary rammendò anche il vecchio materasso, riattaccò tutti i bottoni mancanti, rattoppò gli abiti e osò persino entrare nello studio con scopa e straccio e ordinare al signor Meredith di uscire per farglielo sistemare. C'era però un ambito in cui la zia Marta non la lasciava interferire. La zia era una signora anziana, sorda, mezza cieca e molto infantile, ma era allo stesso tempo determinata a tenere saldamente in mano le redini della cucina, nonostante le astuzie e gli stratagemmi di Mary. Ve lo dico, se la vecchia Marta mi lasciasse cucinare, potreste finalmente fare un pasto come si deve, diceva lei indignata ai bambini della canonica. La faremmo finita con il solito, e anche con i grumi nella pappa di avena e con il latte scremato. Ma cosa ci fa con tutta la crema, dico io? La dà al gatto, al suo gatto, sai, disse Faith. Il suo gatto è un corno, esclamò Mary indignata. A me i gatti non piacciono, sono figli del demonio, si vede dai loro occhi. Beh, se la vecchia Marta non vuole, non c'è niente da fare, immagino, ma mi dà i nervi vedere del buon cibo sprecato. Dopo la scuola i bambini andavano sempre nella valle dell'arcobaleno, anche perché Mary si rifiutava di andare a giocare nel cimitero, diceva che aveva paura dei fantasmi. I fantasmi non esistono, dichiarò Jane Blythe. Ah no? Ne hai mai visto uno? A centinaia, rispose subito Mary. E come sono? Chiese Carl. Orribili, sono tutti vestiti di bianco, con le mani e la testa scheletriche, disse Mary. E tu che hai fatto? Chiese una. Ah, oh, me la sono data a gambe, rispose Mary. In quel momento incrociò lo sguardo di Walter e arrossì. Mary era affascinata da Walter. Aveva detto alle ragazze della canonica che i suoi occhi la rendevano nervosa. Quando li guardo mi vengono in mente tutte le bugie che ho detto in vita mia, aveva confessato, e vorrei non averle mai dette. Il preferito di Mary, però, era Jem. Si era sentita davvero lusingata quando lui l'aveva portata nella soffitta di Ingleside per farle vedere il piccolo museo di curiosità che il capitano Jim Boyd gli aveva lasciato in eredità. Mary aveva inoltre conquistato Carl interessandosi ai suoi scarabei e alle sue formiche. Andava evidentemente più d'accordo con i ragazzi che con le ragazze, e difatti il secondo giorno aveva litigato ferocemente con Nan Blythe. Tua madre è una strega, le aveva detto furiosa. Le donne con i capelli rossi sono tutte streghe. Aveva discusso anche con Faith per via del suo galletto. Secondo Mary aveva la coda troppo corta, al che Faith aveva risposto irritata che di sicuro Dio sapeva meglio di lei quanto dovevano essere lunghe le code dei galletti. Dopodiché non si erano parlate per un giorno intero. Mary trattava con grande rispetto la bambola con un occhio solo di una, ma quando lei le aveva fatto vedere un altro dei suoi tesori, ovvero il disegno di un angelo che portava tra le braccia un bambino, presumibilmente in cielo, Mary aveva detto che assomigliava un po' troppo a un fantasma per i suoi gusti. Una si era rifugiata nella sua stanza a piangere, ma Mary l'aveva scovata e l'aveva abbracciata chiedendo perdono. Nessuno riusciva a restare arrabbiato con lei troppo a lungo, nemmeno Nan, che in genere tendeva a serbare rancore e non le aveva perdonato del tutto l'insulto rivolto a sua madre. Ma Mary era un tipo allegro e sapeva raccontare spaventosissime storie di fantasmi. Dopo il suo arrivo, i giochi nella Valle dell'Arcobaleno si erano fatti decisamente più eccitanti. Aveva anche imparato a suonare lo scacciapensieri e nel giro di poco era diventata più brava di Jerry. Non mi sono mai imbattuta in niente che non potessi imparare. Mi basta mettermici d'impegno, diceva. Non perdeva mai l'occasione di pavoneggiarsi un po'. Insegnò agli altri come costruire dei fischietti con le foglie di borracina raccolte nel vecchio giardino dei Bailey. Fece scoprire loro il gradevole gusto delle erbe aspre che crescevano tra le pietre del fossato del cimitero. E sapeva anche fare meravigliose ombre cinesi sulla parete con le sue dita lunghe e affusolate. Quando andavano a caccia di resina da masticare nella valle dell'Arcobaleno, inoltre, Mary trovava sempre le gocce più grosse e se ne vantava. I bambini a volte la detestavano e a volte l'adoravano, ma in ogni caso la trovavano sempre una persona interessante. Si sottomisero placidamente alle sue manie di comando e nel giro di 15 giorni tutti avevano la sensazione che fosse sempre stata loro amica. È davvero strano che la signora Wiley non sia venuta a cercarmi, disse Mary un giorno. Non capisco. Magari non le interessa più, disse una, e allora potrai restare con noi quanto vuoi. Questa casa è troppo piccola per me, zia Marta, disse Mary in tono minaccioso. È molto bello avere abbastanza da mangiare. Mi sono sempre chiesta come dovesse essere, ma sono un po' esigente per quanto riguarda la cucina. Comunque la signora Wiley prima o poi si farà viva e con un bel bastone con il mio nome sopra. Di giorno non ci penso spesso, ma di notte, nella mansarda, ci rimugino su così tanto che quasi mi auguro che arrivi per davvero, così potrò smettere. A questo punto essere picchiata davvero potrebbe farmi meno male di tutte le volte che ho immaginato che lei mi picchiasse da quando sono scappata. Ma qualcuno di voi è mai stato picchiato? No, certo che no, disse Faith indignata. Papà non lo farebbe mai. Davvero non sapete niente del mondo, disse Mary con un sospiro, metà tra invidia e senso di superiorità. Non avete idea di che cosa ho passato io. Immagino che nemmeno i Blythe siano mai stati picchiati. Oh no, credo di no, ma credo che ogni tanto li abbiano sculacciati quando erano piccoli. Ah, una sculacciata non è niente, disse Mary sprezzante. Io l'avrei scambiata per una carezza. Beh, non c'è giustizia a questo mondo. Non mi lamenterei se avessi ricevuto la mia parte di legnate, ma maledizione, me ne sono prese davvero troppe. Non sta bene dire quella parola, Mary, la rimproverò una. Mi avevi promesso che non l'avresti detta più. E dai, rispose Mary, se sapessi quali altre parole potrei dire, non ti agiteresti così tanto per un semplice maledizione. E poi sai benissimo che non ho detto neanche una bugia da quando sono arrivata qui. E tutte quelle storie dei fantasmi che hai visto? Chiese Faith. Mary arrossì. Quelle sono un'altra cosa, disse in tono di sfida. Sapevo che non ci avreste creduto. Non volevo ingannarvi. E comunque mi è capitato per davvero di vedere qualcosa di strano una sera che stava passando vicino al cimitero dall'altro lato della baia. Quant'è vero che sono viva? Non lo so se era un fantasma o solo il vecchio cavallo bianco di Sandy Crawford, ma aveva un aspetto proprio strano e credetemi, me la sono data a gambe più in fretta che ho potuto. L'incidente del merluzzo. Rilla Blythe camminava a testa alta con un'aria forse un po' orgogliosa lungo la strada principale di Glen in direzione della canonica, portando un cestino di fragole precoci che Susan aveva coltivato in uno degli angolini assolati di Ingleside fino a renderle assolutamente deliziose. Aveva poi ordinato a Rilla di consegnare il cestino esclusivamente a zia Marta o al signor Meredith, e lei, fiera di aver ricevuto un incarico di tale importanza, era decisa a seguire le istruzioni alla lettera. Susan le aveva fatto indossare un bel abitino bianco inamidato e ricamato, cui aveva abbinato una fascia azzurra e un paio di ballerine decorate di perline. I suoi riccioli rossi erano lucenti e gonfi e Susan le aveva dato il permesso di mettere il suo cappello più bello come omaggio agli abitanti della canonica. Era un cappello decisamente raffinato che doveva più al gusto di Susan che non a quello di Anna, ma la giovane anima di Rilla esultava di tutto quello splendore di seta, pizzi e fiori. Era molto consapevole di quanto fosse bello quel cappello e per questo probabilmente salì sulla collina della canonica con passo un po' impettito. Forse questo, o il cappello in sé a dare sui nervi a Mary Vance, che si stava dondolando sul cancello d'ingresso. In quel momento, tra l'altro, era già abbastanza irritata perché la zia Marta le aveva impedito di pelare le patate e l'aveva buttata fuori dalla cucina. Le tue patate sono sempre sbucciate a metà e mezze crude. A quanto ci godrò ad andare al tuo funerale, aveva esclamato Mary. Poi era uscita sbattendo la porta così violentemente che persino zia Marta l'aveva sentita. Il signor Meredith, nel suo studio, aveva udito le vibrazioni di quel tonfo e aveva pensato distrattamente che forse c'era stato un piccolo terremoto, dopodiché era tornato a occuparsi del suo sermone. Mary scese dal cancello e squadrò la piccola damigella di Ingleside tirata a lucido. Che hai lì? Chiese tentando di prenderle il cestino. Rilla oppose resistenza. È per il signor Meledith, balbettò. Dammelo, glielo porto io, disse Mary. No, Susan ha detto che non devo darlo a nessuno, solo al signor Meledith o alla zia Malta, insisté Rilla. Mary le lanciò un'occhiataccia. Ma chi ti credi di essere vestita come una bambolina? Guardami un po', io mi vesto di stracci, non me ne importa niente. Preferisco così che essere una bambola. Va a casa e torna nella tua vetrinetta. Guardami, guardami, guardami. Mary si lanciò in una danza scatenata tutto intorno a una perplessa e sconcertata Rilla, facendo svolazzare la gonna lacera e continuando a esclamare: Guardami, guardami! Finché la povera bambina non ne poté più. Tentò di oltrepassare il cancello, ma Mary le si parò di nuovo davanti. Dammi quel cestino! Le ordinò con una smorfia. Abilità in cui era una vera maestra. Sapeva dare al suo volto un aspetto così grottesco e mostruoso che suscitava sempre l'effetto voluto, grazie anche ai suoi bizzarri occhi chiarissimi e luminosi. No! Balbettò Rilla, spaventata ma risoluta. Lasciami passare, Mary Vance! Mary si placò per un istante e si guardò intorno. Poco oltre il cancello c'era un piccolo graticcio su cui erano stati messi a essiccare una dozzina di grossi merluzzi. Uno dei parrocchiani del signor Meredith glieli aveva portati qualche giorno prima, forse in sostituzione dell'offerta in denaro dovuta alla parrocchia. Il signor Meredith lo aveva ringraziato e poi si era completamente dimenticato dei pesci, che sarebbero senz'altro andati a male se l'infaticabile Mary non li avesse preparati per essiccarli e non avesse improvvisato con le sue mani quel graticcio. In quel momento ebbe un'ispirazione diabolica. Afferrò il più grosso dei merluzzi, un affare enorme e piatto, grande quasi quanto lei, e con un balzo si lanciò addosso alla terrorizzata Rilla, brandendo quell'arma bizzarra. A quel punto il coraggio di Rilla venne meno. Ricevere un merluzzo essiccato in faccia era una circostanza così inaudita che non aveva proprio la forza di affrontarla. Lasciò cadere a terra il cestino con un urlo e scappò via. Le bellissime fragole che Susan aveva scelto con cura per il pastore rotolarono sulla strada polverosa come un piccolo torrente rosato e furono calpestate dai piedi dell'inseguitrice e dell'inseguita. Ma Mary aveva completamente dimenticato il cestino e il suo contenuto. Pensava solo a quanto era divertente spaventare a morte Rilla Blythe, così avrebbe imparato una buona volta a non darsi tante arie per i suoi bei vestiti. Rilla corse giù per la collina, imboccò la strada con le ali ai piedi e riuscì a non farsi raggiungere da Mary, che era rallentata dalle sue stesse risate, ma ogni tanto riusciva a lanciare qualche agghiacciante urlo, mulinando il merluzzo in aria. Corsero per tutta la strada principale di Glen, mentre tutti si affacciavano alle finestre per guardarle. Mary percepì di aver dato scandalo e ci provò un certo gusto, mentre Rilla, accecata dalla paura e quasi senza fiato, si rese conto di non farcela più a correre. Tra pochi istanti quella terribile ragazza le sarebbe saltata addosso con il suo merluzzo. A quel punto la poverina inciampò e finì dritta in una pozzanghera alla fine della strada, proprio nel momento in cui la signorina Cornelia usciva dal negozio di Carter Flagg. La signorina Cornelia capì al volo la situazione e lo stesso fu per Mary, che frenò all'istante la sua pazza corsa e prima che l'altra potesse aprire bocca si voltò e filò su per la collina, rapida come ne era scesa. La signorina Cornelia serrò le labbra minacciosa, consapevole che non aveva senso inseguirla. Aiutò invece la povera Rilla, disperata e singhiozzante, a rialzarsi e la portò a casa. Rilla aveva il cuore spezzato. Il vestito, le ballerine, il cappello erano rovinati e il suo orgoglio di bambina di 6 anni aveva ricevuto un duro colpo. Susan si fece livida d'indignazione quando la signorina Cornelia le riferì dell'impresa di Mary Vance. Oh, quella sfacciata, quella piccola sfacciata, disse mentre portava via Rilla per ripulirla e consolarla. Questa faccenda ha passato il segno, Anna cara, disse risoluta la signorina Cornelia. Bisogna fare qualcosa. Chi è questa ragazzina che vive alla canonica? Da dove arriva? Beh, se ho ben capito, arriva dall'altro lato della baia ed è in visita alla canonica, rispose Anna, che vedeva il lato comico della vicenda del merluzzo e segretamente pensava che Rilla fosse un po' troppo vanitosa e avesse bisogno di una raddrizzata. Conosco tutte le famiglie dell'altro lato della baia che vengono in chiesa da noi e quell'impertinente non fa parte di nessuna di loro, rispose la signorina Cornelia. Si veste praticamente di stracci e per andare in chiesa indossa i vecchi abiti di Faith Meredith. C'è sotto qualche mistero e io lo scoprirò, visto che nessun altro ha intenzione di farlo. Sono sicura che c'era lei dietro quello che è successo nella battaglia di Warren Mead l'altro giorno. Hai saputo? Sua madre si è spaventata così tanto che le sono venute le convulsioni. No, ricordo che hanno chiamato Gilbert, ma non ho capito quale fosse il problema. Sai che è debole di cuore, no? La scorsa settimana, mentre era sola in veranda, ha sentito delle urla spaventose. Aiuto! Vogliono ucciderci! Che venivano dai cespugli, da far venire la pelle d'oca, Anna cara. Il suo cuore non ha retto. Anche Warren ha sentito le urla ed è andato subito a vedere e ha trovato i bambini della canonica seduti su un tronco caduto che urlavano: Vogliono ucciderci! A pieni polmoni. Loro hanno detto che era tutta una sceneggiata e che non pensavano che qualcuno li sentisse. Stavano giocando all'imboscata degli indiani. A quel punto Warren è tornato a casa e ha trovato sua madre svenuta sulla veranda. Susan, che nel frattempo era ritornata nella stanza, sbuffò con aria sprezzante. Non credo proprio che sia svenuta veramente, signora Elliot, può starne certa. Sento parlare del cuore debole di Amelia Warren da 40 anni, praticamente da quando lei ne aveva 20. Le piace far preoccupare tutti e chiamare il dottore, e ogni scusa è buona. In effetti, non mi pare che Gilbert l'abbia presa molto sul serio, disse Anna. Oh, beh, può anche darsi, disse la signorina Cornelia. Ma si è parlato parecchio della faccenda e il fatto che i Mead siano metodisti peggiora le cose. Che ne sarà di quei bambini? A volte non ci dormo la notte a pensarci, Anna cara. Mi chiedo anche se mangino abbastanza, visto che loro padre è così perso nei suoi sogni da dimenticare persino di avere uno stomaco. E quell'anziana pigrona della zia non si prende il disturbo di cucinare se non è strettamente necessario. Quei ragazzini non fanno che scorrazzare in giro e adesso che la scuola sta finendo sarà anche peggio. Devo dire che si divertono parecchio, disse Anna ridendo al ricordo di alcune avventure nella valle dell'arcobaleno di cui era venuta a sapere. Ma sono bambini coraggiosi, sinceri, leali e fidati. È vero, Anna cara. E se ripenso a tutti i problemi causati da quei due ragazzini pettegoli e infidi del pastore che c'era prima, tendo a perdonare parecchie cose ai Meredith. In fin dei conti, signora dottora cara, sono dei bravi bambini, disse Susan. C'è una certa abbondanza di peccato originale in loro, lo ammetto, ma forse è meglio così, altrimenti sarebbero fin troppo buoni e cari. Però continuo a essere convinta che non stia bene andare a giocare nel cimitero. Su questo non transigo. E lì però fanno giochi molto più calmi, le difese Anna. Non corrono e urlano così tanto come fanno altrove. Si sentono certi ululati dalla valle dell'arcobaleno. Ma credo che a quelli diano un valido contributo anche i miei. L'altra sera hanno messo in scena una battaglia e hanno dovuto provvedere in qualche modo alle cannonate, perché ovviamente non avevano della vera artiglieria a disposizione, mi ha spiegato Jem. Sta attraversando quella fase in cui tutti i ragazzini sognano di fare il soldato. Ah, per fortuna lui non dovrà farlo, disse la signorina Cornelia. Non ho mai approvato che abbiano spedito i nostri ragazzi in Sudafrica, ma adesso quella brutta faccenda è finita e non credo che risuccederà niente di simile. Mi pare che il mondo sia diventato un po' più ragionevole. Per quanto riguarda i Meredith, l'ho già detto e lo ripeto, se solo il signor Meredith avesse una moglie si risolverebbe tutto quanto. La scorsa settimana è andato 2 volte a casa dei Kirk, ho saputo, disse Susan. Beh, disse la signorina Cornelia pensierosa, di norma non mi piace che un pastore sposi un membro della sua congregazione, perché finisce per viziarlo. Ma in questo caso non credo ci sarebbe niente di male. Elizabeth Kirk piace a tutti e non mi pare ci sia la fila per fare da matrigna a quei ragazzini. Persino quelle due che vivono sul monte sono titubanti. Non hanno ancora teso le loro solite trappole per il signor Meredith. Elizabeth sarebbe un'ottima moglie. Il problema, Anna cara, è che è proprio bruttina e il signor Meredith, per quanto sia distratto, apprezza comunque le donne belle. Tipico degli uomini. Non è poi così spirituale sotto questo aspetto, credete a me. Elizabeth Kirk è una cara persona, però gira voce che un sacco di gente che ha dormito nella stanza degli ospiti a casa di sua madre sia morta di freddo, signora dottora cara. Commentò cupamente Susan. Se posso esprimere la mia opinione riguardo un argomento così importante come il matrimonio di un pastore, direi che la cugina di Elizabeth, Sara, che vive dall'altro lato della baia, sarebbe una sposa migliore per il signor Meredith. Ma Sara è metodista! Esclamò la signorina Cornelia, scandalizzata, come se Susan avesse appena proposto di far sposare il signor Meredith con un eschimese. Probabilmente diventerebbe presbiteriana se lo sposasse, ribatté Susan. La signorina Cornelia scosse la testa. Per lei valeva il detto metodista una volta, metodista per sempre. Sara Kirk è fuori questione, disse assertiva. E anche Emily Andrew, anche se la sua famiglia sta cercando di combinare la cosa. Stanno lanciando la povera Emmeline addosso al signor Meredith in tutti i modi e lui nemmeno se ne accorge. Emmeline Drew però non ha molto spirito di iniziativa, disse Susan, ed è quel tipo di donna che ti mette la borsa dell'acqua calda sotto le coperte nelle notti più fredde e si offende a morte se non viene ringraziata, signora dottora cara. Sua madre poi era una pessima padrona di casa. Ha mai sentito la storia dello strofinaccio? Un giorno perse il suo strofinaccio e lo ritrovò solo il giorno successivo, dentro l'oca che stava servendo a tavola. Era finito in mezzo al ripieno. Pensa che una donna del genere potrebbe fare da suocera a un pastore? Io non credo. Comunque penso che potrei impiegare meglio il mio tempo rammendando i pantaloni di Gemma invece di spettegolare sui vicini. L'altra sera nella valle dell'arcobaleno li ha ridotti in uno stato scandaloso. Dov'è Walter? Chiese Anna. Temo che stia combinando qualche guaio, signora dottora cara. È su in soffitta a scrivere su un quaderno chissà che cosa. Questo semestre non ha dato il meglio di sé in aritmetica, mi ha detto il suo maestro, e io so benissimo perché. Invece di esercitarsi si mette a scrivere quelle sue sciocche rime. Ho paura che il ragazzo diventerà un poeta, signora dottora cara. Beh, lo è già adesso, Susan. Mi pare che lei l'abbia presa bene, signora dottora. Immagino sia il modo migliore di reagire a certe notizie, sempre che se ne abbia la forza. Avevo uno zio che ha cominciato come poeta ed è finito barbone. Era la vergogna della famiglia. Non hai una grande opinione dei poeti, Susan, vero? Disse Anna ridendo. E chi ce l'ha, signora dottora cara? Chiese Susan, genuinamente sbalordita. Che mi dici di Milton e di Shakespeare e dei poeti della Bibbia? Ho sentito dire che Milton non andava affatto d'accordo con sua moglie e che Shakespeare non era una persona molto rispettabile. Per quanto riguarda la Bibbia, ovviamente a quei tempi sacri le cose erano diverse, anche se non ho mai avuto una grande considerazione per il re Davide. Mi dispiace, ma è così. Non mi risulta che dalla poesia sia mai venuto fuori niente di buono e spero che a quel benedetto bambino prima o poi passi il vizio e se non gli passa da solo, possiamo sempre provare con l'olio di fegato di merluzzo. Ci pensa la signorina Cornelia. Il giorno seguente la signorina Cornelia andò alla canonica e interrogò Mary, la quale, essendo una ragazzina sveglia e piuttosto astuta, le raccontò la sua storia con la massima sincerità, senza lamentarsi né vantarsi. La signorina Cornelia ne fu positivamente impressionata, più di quanto la stessa Mary si aspettasse, ma ritenne suo dovere mostrarsi severa. E secondo te, disse in tono di rimprovero, il modo migliore per dimostrare la tua gratitudine verso questa famiglia che è stata così gentile con te è spaventare e inseguire una bambina loro amica, come hai fatto ieri? È vero, sono stata proprio cattiva a farlo, ammise Mary con semplicità. Non so cosa mi è preso, e quel vecchio merluzzo era proprio lì a portata di mano. Però mi è dispiaciuto un sacco. Ieri notte ci ho pianto quando sono andata a dormire, davvero. Chieda una se non ci crede. Non le ho detto il motivo per cui piangevo, perché mi vergognavo. E allora si è messa a piangere anche lei perché pensava che qualcuno avesse ferito i miei sentimenti. Accidenti, io neanche ce li ho dei veri sentimenti da ferire. È che sono preoccupata perché la signora Wiley non è venuta a cercarmi, non è da lei. Anche la signorina Cornelia trovava la faccenda piuttosto strana, ma si limitò ad ammonire Mary di non prendersi altre libertà con i merluzzi del pastore. Dopodiché andò a riferire i suoi progressi a Ingleside. Se la storia che ha raccontato quella bambina è vera, vale la pena indagare un po', disse. Ne so qualcosa di quella signora Wiley, credete a me. Marcia la conosceva bene quando viveva dall'altro lato della baia. L'estate scorsa, in effetti, ha detto qualcosa a proposito di una ragazzina che si era presa in casa. Immagino si trattasse di Mary. Aveva sentito dire che la stava ammazzando di lavoro e che non le dava abbastanza da mangiare né da vestire. Sai, Anna cara, non è mia abitudine impicciarmi degli affari di quelli che vivono dall'altro lato della baia, ma penso che manderò Marcia laggiù domani a cercare di capire come stanno le cose e solo dopo parlerò con il pastore. Pensa un po', Anna cara, i Meredith hanno trovato quella ragazzina mezza morta di fame nel vecchio fienile di James Taylor. Aveva passato la notte lì, al freddo, affamata e sola, mentre noi dormivamo al caldo nei nostri letti dopo una lauta cena. Poverina, disse Anna, immaginando uno dei suoi cari bambini solo e al freddo in una situazione come quella. Se davvero la maltrattavano, signorina Cornelia, non possiamo rimandarla in quel posto. Sono stata anche io un'orfana e mi sono trovata in situazioni simili. Dovremmo parlare con quelli dell'orfanotrofio di Hope Town, disse la signorina Cornelia. In ogni caso non può restare alla canonica. Chissà cosa potrebbero imparare quei bambini da lei. Se ho ben capito, è solita imprecare. Ma pensa, sono 2 settimane che è lì e il signor Meredith neanche se n'è accorto. Cosa ce l'ha a fare una famiglia, un uomo così? Forse sarebbe stato meglio per lui farsi monaco, Anna cara. 2 sere dopo, la signorina Cornelia tornò a Ingleside. È una cosa incredibile, disse. La signora Wiley è stata ritrovata morta nel suo letto la mattina stessa in cui quella povera Mary è scappata. Soffriva di cuore da anni e il dottore l'aveva avvisata che poteva succedere. Aveva mandato via il suo garzone, perciò in casa non c'era nessuno. I vicini l'hanno trovata il giorno dopo. Hanno notato che la bambina non c'era, ma hanno immaginato che la signora Wiley l'avesse mandata da quella sua cugina che vive vicino a Charlottetown, come aveva detto di voler fare. La cugina non è venuta al funerale, perciò nessuno ha mai saputo che Mary non era da lei. La gente con cui Marshall ha parlato gli ha raccontato di come la signora Wiley trattava Mary e quello che ha saputo gli ha fatto ribollire il sangue, così dice lui. Sai, Marshall si infuria da morire quando sente storie di bambini maltrattati. Dicono che la picchiava per ogni minimo errore o sbadataggine. A qualcuno ogni tanto è venuto in mente di scrivere all'orfanotrofio, ma alla fine nessuno ha mai fatto niente. Beh, mi dispiace che questa signora Wiley sia morta, disse Susan furiosa, perché avrei proprio voluto fare un salto dall'altro lato della baia e dirgliene quattro. Affamare e picchiare una bambina, signora dottora cara. Come sa bene, sono d'accordo nel somministrare qualche sculacciata di tanto in tanto, ma niente di più. Che ne sarà adesso di quella povera bambina, signor Elliot? Immagino che dovrà tornare all'orfanotrofio di Hope Town, disse la signorina Cornelia. Qui nei paraggi tutti quelli che avevano bisogno di una ragazza di casa ne hanno già una. Domani andrò dal signor Meredith e gli dirò come la penso su tutta questa faccenda. Oh, lo farà senz'altro, signora dottora cara, disse Susan quando la signorina Cornelia se ne andò. Non c'è niente che possa fermarla. Sarebbe capace di rifare da sola il tetto del campanile se le venisse in mente di volerlo fare. Ma non capisco proprio come faccia Cornelia Bryant a parlare a un pastore a quel modo. Sembra quasi che lo consideri una persona normale.